T'hanno riconosciuto? Non lo so. Comunque Sara, Sara, sarà insieme a noi durante le prossime puntate di Movieland. Questa è la puntata numero 14. Siamo prontissimi per iniziare. Abbiamo iniziato con Madonna, Vogue, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada, che è bellissimo film del 2006. Questa canzone invece era contenuta nella The Immaculate Collection del 1990. Benissimo, allora noi vogliamo andare avanti. Naturalmente, Sara, ricorda come fanno i nostri ascoltatori per mettersi in contatto con noi qualora volessero. Allora, se volete mettervi in contatto con noi, andate sulla pagina Facebook Movieland Italia, oppure scrivete alla mail movieland.radio@gmail.com. E se non volessero? E se non volessero non ci contattano. Ma se non volessero non ci contattassero. Ma io spero di sì, però, dai. Ma sì, dai, contattateci alla mail. Allora, andiamo con la prossima. Ma sì, andiamo con la prossima. Ah, la riconoscete? C'è questo, quel tipo alternativo con i capelli bellissimo. Le vibrazioni, vieni da me, dalla colonna sonora di X su Movieland. Le distanze ci informano che siamo fragili, e guardando le foto ti ricorderai quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai. Ma io, avendo paura, non ti cercherò. Trasformano intere identità, ma è guardando le stelle che mi innamorerò di tutte le cose più belle che ci sono già, ma che fanno paura perché siamo fragili, fragili, fragili.

pacciuccia, come dicono in Spagna, sta poco bene a casa, quindi gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. E adesso ci ascoltiamo i trailer, giusto Sara? Giustissimo. Giustissimo. Allora vediamo se la regia non si incasina con i bottoni e riesce a mandare i trailers. Movieland, il cinema alla radio. Spazio in collaborazione con filmapp.com. Il mondo ammirava la principessa, ma nessuno immaginava la sua storia d'amore. Dottore, le presento Diana. Non sono mai stata così attratta da nessuno. Sei la donna più famosa del mondo, usa il tuo potere. Amo quell'uomo. Se sposo te, io devo sposare il mondo intero. Non è possibile. Stavo tentando di trovare un modo per poter stare insieme. Diana! Naomi Watts è Diana, la storia segreta di Lady Di al cinema. Sì, che succede? C'è stato un altro omicidio. La storia vera del serial killer che ha terrorizzato l'America. L'hanno trovata stanotte. E una delle ragazze è scomparsa. Mi ha portato a casa sua. La chiamava la sua tana. 8 ragazze negli ultimi 2 anni. Non abbiamo neanche un indizio. Nicolas Cage, ho bisogno di prove concrete. Vanessa Hudgens. Mi sta cercando, aiutami per favore. John Cusack. Io non ho fatto niente. Non si fermerà. Il cacciatore di donne, dal 3 ottobre al cinema. Gru! Gli accendi che non ci sono. Gru non c'è. Sei sicura? Sì, me l'ha appena detto. Agnes, dov'è Gru? Si sta mettendo il rossetto. Sta scacciando le mosche. Si sta tagliando la testa. Fa la pupù. Cattivissimo me 2. Da giovedì 10 ottobre al cinema. Quando una coppia è travolta dalla passione. Tu adesso prendi la tua borsa, ti sciogli i capelli. Ti ricordi il ristorantino in collina? Nulla è impossibile. Quello con le camere sopra. La firma sulla fideiussione? Non te la metto. Passate la fame, gnugnu. E se l'amore è sincero? Basta pensare alle cose brutte. Pensiamo noi. Il matrimonio sarà un trionfo di dolcezza. Brava, brava. Vattene a fanculo. Ora non bisogna perdere la speranza, dottore, sia forte. Per una moglie spietata. Gli affarevano bene? Ma sai, questa crisi, c'è da fare i soldi a palate. E un marito in affanno? Noi concediamo finanziamenti sulla base di certi requisiti. Punto, il coraggio, l'ottimismo. E la firma di sua moglie. 01 Distribution è lieta di presentare Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto in una commedia poco romantica dai risvolti fatali. Ma si può sapere cosa succede? Aspirante vedovo. Ma niente. Perché? Credevi nel sonno. Dal 10 ottobre al cinema. Yeah. Spazio in collaborazione con filmapp.com. Movieland. Il cinema alla radio. Di te. Il senso di te, che bella canzone d'amore, una canzone da manuale, una canzone da manuale d'amore, due. Due. Eh sì, una canzone da manuale d'amore 2, infatti dal bellissimo film del 2007, da dove abbiamo estrapolato questa canzone contenuta nella colonna sonora. Vi ricordo che siamo Sara ed Emanuele, anzi siamo Emanuele e Sara, qui siamo, non voglio primeggiare, solamente che io non sono Sara, sei tu Sara, vabbè. Comunque, non stiamo a perdere tempo in Ciaciares, ma passiamo direttamente alla notizia che vogliamo dare, giusto? Perché abbiamo una notizia fresca fresca. Eh sì, io ho una bellissima notizia da dare ai nostri amici ascoltatori, perché dopo che Jerry Bruckheim ha fatto The Lone Ranger, che non è stato un così grande successo, ha deciso di mettere mano a due capolavori che invece sono stati un successo ai loro tempi, cioè Beverly Hills e Bad Boys, perché avremo un Beverly Hills 4 e un Bad Boys 3. Addirittura, addirittura, ma davvero? Sì, davvero. Bello, e questo qui lo dovrà, anche perché Bruckheimer si stava giocando veramente la pelle su questa cosa qua. Benissimo, quindi che cosa facciamo? Ci ascoltiamo la colonna sonora? Sì, quella di Bad Boys. Yes, Diana King, Shy Guy, Bad Boys del 1995. Buon ascolto su Movieland. The man them a rush me. Just a wait for pretty boy and want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. Oggi a Movieland vogliamo parlare di fotografia cinematografica, e lo facciamo sicuramente con uno dei migliori direttori della fotografia italiani presenti adesso nel panorama cinematografico nazionale. Vi sto parlando di un direttore della fotografia che ha vinto ben 6 Davide di Donatello, 4 Nastri d'Argento e tantissimi altri premi. Sto parlando di Luca Bigazzi. Lo abbiamo insieme a noi in connessione.

Daniel's Band. Charlie Daniel's Band, South Gonna Do It Again. Il Sud lo farà ancora. E è tratta da Hazard. Quella era che ho fatto prima. Era il clacson del generale Lee, della macchina arancione che guidavano i fratelli Duke. Ma come, non hai visto la serie della CBS del 1979? Ma per favore, io avevo 5 anni. L'ho vista poi dopo, insomma. Ecco. Io 2. Vabbè, vabbè. Comunque c'è stato anche un film nel 2005 ispirato a questa serie, Hazard appunto, e questa era la colonna, faceva parte della colonna sonora appunto di questo film. Hai capito? Hai capito? Ho capito, ma adesso sei tu che devi dare una bella notizia. Ecco, ecco, ecco, meno male che c'è qualcuno che mi aiuta e che mi ricorda le cose. Adesso qui si sbanco tutto, rompo il microfono, eccoci qua. Oh, ebbene sì, è arrivata una proposta indecente per Miley Cyrus, dal twerking al porno. Miley Cyrus, con i suoi ultimi scandali e provocazioni, deve aver dato fin troppo nell'occhio, e una casa di produzione di film hard le ha fatto un'offerta. Ebbene sì, l'ex stellina della Disney non dovrà spogliarsi come attrice, meno male, ma la Game Link le ha proposto di fare da regista di un film a luci rosse per $1 milione, promettendogli totale libertà espressiva. Immaginiamoci cosa ne potrebbe uscire fuori. La casa di produzione le avrebbe inviato una lettera con la proposta indecente. Ormai sei cresciuta, gli avrebbero detto, specialmente quando esprimi la tua sessualità, come nell'ultimo video, sei la scelta ideale perché mostreresti a tutti la tua visione di artista sul mondo dell'intrattenimento adulto. Hanno fatto leva anche sull'invidia forse provata da Sinéad O'Connor, che aveva detto appunto a Miley Cyrus di prostituirsi per il successo. Loro hanno utilizzato questa scusa e hanno detto: ti offriamo l'opportunità di dimostrare che non sei più una ragazzina e che non cederai a Sinéad O'Connor, lei è gelosa del tuo successo. Vabbè, comunque intanto la Cyrus ha deciso di chiudere definitivamente con il passato e, come ha scritto il Mail Online, ha voluto sbarazzarsi dei ricordi dell'ex fidanzato, l'attore Liam Hemsworth, e ha fatto così arrivare a casa sua un bel furgone e ha spedito i vestiti di Liam a un negozio di beneficenza che raccoglie fondi per i malati, udite udite, niente po' di meno che del AIDS. Sarà meglio prevenire che curare? Non si sa. Ma diciamo che forse come starlettina della Disney ormai era un po' acqua passata, però ha un po' esagerato. È che ha preso un po' una stradaccia. Sì. Sì. Noi però ce l'ascoltiamo perché comunque fa delle belle canzoni. Questa è la canzone, il video dello scandalo, dove lei recita, canta, anzi, scusate, completamente nuda su una palla da demolizioni. Wrecking Ball, questa è Miley Cyrus, questo è Movieland. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. You're not coming down. It slowly turned you Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. Anche meno. Come è incavolata Miley Cyrus. Secondo me c'era una spina di ferro sulla palla e si è bucata il posteriors. No, secondo me c'era una foto dell'ex fidanzato. Ah, Liam Hemsworth. Benissimo, 212 milioni di visualizzazioni di questo video su YouTube. Ha fatto un boom pazzesco. Chi non l'avesse visto, ma 212 milioni l'hanno visto tutti. Comunque, chi non l'avesse visto andasse su YouTube a vedersi questo video, appunto, di Miley Cyrus. È arrivato il momento adesso di inneggiare a tutte noi da Movie Land, essendo un programma di approfondimento cinematografico, tutte le settimane esortiamo tutti i nostri ascoltatori ad andare al cinema, naturalmente, perché il cinema ha bisogno dei soldini e dei biglietti e delle vendite di tutti noi. Quindi, comunque, siccome sappiamo che non tutti ci darete ascolto, che ci sono tanti pigroni che vogliono rimanere stesi sul divano, cosa facciamo? La guida TV, come tutte le settimane, da un po' a questa parte. Praticamente questa sera potremo vedere quattro bellissimi film, non solo questi, ne abbiamo scelti quattro, i migliori. Su Italia 2 alle 21.10 ci sarà L'Arancia Meccanica, su Rete 4 alle 21.20 Missione Impossibile 3, su MTV addirittura alle 23 Boogeyman L'Uomo Nero e sulla 7 alle 23.20 L'Ombra del Testimone. Quindi anche per chi volesse rimanere a casa c'è il suo bel da fare, giusto? Eh sì. Benissimo, noi vogliamo continuare con l'ultima canzone, dopo seguiranno i saluti. Lei si chiama... Parte o non parte? Ma allora, questa regia che fa? Dormiamo oggi, ma dai! Oh, Adele, Someone Like You, su Movie Land. Ancora per pochi minuti, stiamo insieme. You're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, and stay. Glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Sometimes it lasts, since day. Adele, Someone Like You, bellissima canzone d'amore tratta dalla colonna sonora dei Segreti di Brokeback Mountain del 2005, protagonizzata da Jake Gyllenhaal e Heath Ledger. Una bellissima un bellissimo film che anche questo non l'ho visto, che però da quello che ho letto, praticamente i nostri amici Jake Gyllenhaal e Heath Ledger sono fidanzati, quindi un film sull'omosessualità. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, due settimane fa, con il nostro amico cinefilo qualunque. Volevo solamente fare un piccolo appunto sul titolo, perché è quantomeno di cattivo gusto intitolare un film che parla di omosessualità I segreti della montagna rotta di dietro, perché è Brokeback Mountain. Vabbè. Comunque non vogliamo sindacare su questo, noi siamo arrivati alla fine. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori che sabato prossimo ci ritroveranno qui puntuali con Movieland, il programma di approfondimento cinematografico condotto da Emanuele, e adesso si è aggiunta anche Sara, che rimarrà con noi durante le prossime settimane. Io vi ricordo la pagina di Facebook Movieland Italia e la nostra email movieland.radio@gmail.com. Diamo appuntamento alla settimana prossima? Sì, a tutti alla settimana prossima. Benissimo, un saluto a tutti e ci sentiamo appunto la settimana prossima. Ciao. Azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto!